Euroreportage. Cooperazione in cambio di controllo. La ricetta UE per i migranti non piace a tutti. Di Valentina Furlanetto. Si scrive cooperazione, si legge fermiamo i migranti. La Commissione europea ha accolto la proposta italiana del Migration Compact, un patto fra l'Europa e 7 paesi africani medio orientali di partenza e di transito dei migranti. Un patto simile a quello stretto da Bruxelles con Ankara, che ha consentito di chiudere la rotta balcanica. Se ne è parlato anche alle giornate europee dello sviluppo a Bruxelles, organizzate a metà giugno. Nello spirito dell'agenda europea sulla migrazione, si legge nel comunicato diffuso dalla Commissione europea, le priorità sono salvare vite in mare, aumentare i rimpatri, consentire ai migranti e ai rifugiati di rimanere vicino a casa e a lungo termine sostenere lo sviluppo dei paesi terzi per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare. È il famoso aiutiamoli a casa loro. I paesi indicati sono Giordania e Libano, Niger, Nigeria, Senegal, Mali ed Etiopia. Il Migration Compact prevede lo stanziamento di 8 miliardi e sul lungo termine la Commissione, grazie a un sistema di garanzie, mira a ottenere fino a 62 miliardi di euro di fondi pubblici e privati. Il modello per il Migration Compact è il patto fra l'Unione Europea e la Turchia, sul quale si è detto di tutto. Alcuni lo hanno definito un patto con il diavolo, incarnato dal premier turco Erdogan, che ricatterebbe l'Europa per ottenere fondi e molte altre cose. Altri invece vantano il fatto che da quando è stato firmato, il flusso dei migranti che attraversano il mare Egeo è calato vistosamente. In effetti così è stato. Ne abbiamo parlato a Bruxelles con Eugenio Ambrosi, direttore dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, OIM Europe. Prima di tutto bisogna considerare la validità degli interventi specifici più che la validità concettuale di un certo tipo di intervento, perché sicuramente molti interventi di cooperazione allo sviluppo sono stati relativamente efficienti, ma non perché l'idea del nesso fra migrazione e sviluppo sia sbagliata, ma perché poi bisogna fare le cose corrette in base ai bisogni effettivi e con modalità di implementazione adeguate. Per quello che riguarda la questione dei Migration Compact per gestire i flussi, credo che lì bisogna operare qualche distinguo. Prima di tutto, la cooperazione allo sviluppo è una necessità in se stessa. Quindi non è una necessità volta a gestire o limitare i flussi migratori, ma è una necessità per bisogni effettivi di sviluppo. Quindi il primo obiettivo di qualunque intervento di cooperazione allo sviluppo è rispondere ai bisogni delle popolazioni di cui si parla. Questo può direttamente o indirettamente avere un effetto sui flussi che non è necessariamente di limitazione dei flussi. Credo che l'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo nell'ambito migratorio sia offrire alle popolazioni in questione la possibilità di scegliere se migrare o non migrare, perché la mobilità è sempre stata per il mondo, per noi italiani ancora di più recentemente, una strategia a volte di sopravvivenza, a volte di sviluppo, a volte di apertura a differenti progetti di vita. Quindi è una caratteristica normale, regolare di qualunque società e direi di qualunque persona. La cooperazione allo sviluppo deve essere indirizzata a risolvere i bisogni effettivi e essenziali delle persone per poter dare a queste persone la possibilità di scegliere se muoversi, non muoversi, restare o migrare, così come ognuno di noi in questo momento in Europa ha questa possibilità di scelta. Fra l'Unione Europea e l'Africa, tuttavia, si è instaurato un dialogo decisamente strano, dove si fa finta di essere in due, ma alla fine chi decide è uno solo. Gli stati membri devono infatti metterci i finanziamenti, ma quelli africani hanno poca scelta: o collaborano, oppure l'Europa taglierà gli aiuti allo sviluppo e applicherà ritorsioni commerciali. Per questo 100 organizzazioni non governative, da Oxfam a Save the Children, da Amnesty International ad ActionAid, chiedono ai paesi europei di rigettare la proposta della Commissione. Medici Senza Frontiere va oltre e ha annunciato che non prenderà più fondi dall'Unione Europea e dagli Stati membri come protesta per le loro vergognose politiche di deterrenza. L'organizzazione benefica è pronta a rinunciare ai 56 milioni di euro l'anno che riceve dalle istituzioni europee e dai paesi membri. Loris De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere Italia. È una decisione ovviamente che implica una serie di sforzi economici ancora maggiori dal nostro punto di vista, però voglio dire, esprimere delle preoccupazioni e critiche molto dure nei confronti dell'accordo europeo-turco e poi continuare a essere finanziati dall'Unione Europea ci sembra assolutamente poco coerente. A quanti fondi dovreste rinunciare? Non sono dei finanziamenti che bloccherebbero le nostre opere, perché ricordiamo che l'85-90% dei fondi di Medici Senza Frontiere internazionali sono privati. In realtà molti progetti di cooperazione di questo tipo sono già in essere. Ad esempio l'Europa finanzia il campo profughi di Agadez in Niger e l'Italia è in prima linea nel gestire un progetto in Etiopia, come spiega il direttore generale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli Esteri, Giampaolo Cantini. L'azione della cooperazione allo sviluppo in generale è un'azione che tende appunto alla promozione delle condizioni economiche e sociali di una serie di paesi con i quali noi abbiamo rapporti di cooperazione. Quindi la cooperazione italiana lavora nell'Africa subsahariana in 9 paesi prioritari. Parliamo di Sudan, Sud Sudan, Etiopia, Somalia, Kenya, mentre nell'Africa occidentale parliamo di Senegal, Niger, Burkina Faso e poi, come dicevo, appunto il Mozambico. Questi sono dei paesi che coincidono in larga parte anche con quelli che sono stati individuati come prioritari al vertice tra l'Unione Europea e l'Africa, che si è tenuta alla Valletta nel novembre scorso, dove è stato istituito uno strumento finanziario dell'Unione Europea molto importante, che è appunto il Trust Fund, dedicato ad affrontare le cause di fondo delle migrazioni. A dicembre l'Italia è stata delegata alla gestione di un progetto del valore di 20 milioni di euro denominato SINS. In cosa consiste questo progetto? Questo progetto mira a creare delle opportunità di lavoro e a favorire la creazione di piccole imprese e microimprese attraverso degli strumenti che sono gli strumenti di formazione professionale diretta, diciamo, ai giovani, e degli strumenti di microcredito diretta sempre a giovani e a donne. Quindi individuiamo anche delle categorie che hanno delle forti potenzialità, e quindi la creazione di impresa e la creazione, diciamo, di opportunità di lavoro è intesa a favorire un'azione di stabilizzazione. Ovviamente questo è anche finalizzato ad arginare la migrazione irregolare verso l'Italia, no? O l'Europa. Sicuramente. Il Migration Compact da una parte ha delle azioni di breve e medio periodo, che sono quelle di facilitare la riammissione di immigrati in posizione irregolare, quindi di applicare gli accordi di riammissione, di favorire il rimpatrio e il reinserimento, diciamo, nelle economie locali, però ha anche un'azione di più lungo periodo che è destinata invece a creare delle condizioni di impresa quindi e delle opportunità di lavoro. Ormai sono passati 6 mesi da quando questo progetto è stato lanciato. Che tempi ci vogliono per vedere qualche effetto, e ci sono già degli effetti positivi sul fronte delle migrazioni, del controllo della migrazione? Beh, diciamo questi sono progetti che naturalmente hanno un impatto e intendono avere un impatto sul lungo periodo, e quindi questo lo si potrà misurare, diciamo, su un periodo più lungo, quindi dobbiamo valutare gli effetti almeno, diciamo, su 1 o 2 anni. Quello che dicono le associazioni è che nella fretta si rischia di finanziare progetti non del tutto utili. Nella regione del Sahel e nel lago Chad si punta ad esempio parecchio su progetti economici a favore di donne e giovani, non su grandi progetti infrastrutturali. Strade, ponti, reti ferroviarie, porti che negli ultimi 2 decenni sono stati finanziati in larga parte dai cinesi. A Bruxelles abbiamo incontrato il ministro dell'industria etiope, Metrabu Meles. L'Etiopia aveva intrapreso un percorso di crescita economica sostenuta, ma la siccità ha invertito la tendenza. Poiché il settore agricolo contribuisce del 42,3% al PIL del paese, per un totale del 73% della forza lavoro impiegata, è chiaro che la mancanza di piogge ha messo in ginocchio la popolazione. La peggiore siccità degli ultimi 30 anni rischia di trasformarsi in carestia. Uno dei paesi chiave del Migration Compact è il Niger. Secondo l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, lo scorso anno sono stati 120.000 i migranti che hanno attraversato il Niger per arrivare poi in Europa. Ma per quest'anno le stime sono viste al rialzo. Nella regione di Agadez, vicino ad Asamaka, un posto di frontiera fra Niger e Algeria, dove le temperature raggiungono picchi roventi, si raccolgono le speranze e i sogni di migliaia di persone. Qui talvolta sogni e speranze proseguono verso nord e arrivano in Europa. Talvolta muoiono invece nel deserto. Tra il 6 e il 12 giugno di quest'anno, le autorità nigerine hanno trovato i corpi di 20 bambini e 14 adulti, morti di sete dopo essere stati abbandonati dai trafficanti di esseri umani nel deserto del Sahara. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Euroreportage. In collaborazione con Euronet Plus.